ammazzare la noia, è il nostro solo mestiere. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, all'inglese, con doppio turno alla francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. 18 miliardi di tasse in meno, quindi più 18 come l'articolo, sicuramente per molti di voi, ma 18 come le tasse in meno che noi abbiamo previsto per questa manovra. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Dai, dai, su. Sveglia il ritmo reggae di Bob Marley, mio mito assoluto, eh? Quindi non toccatemi in Bob Marley, ve lo dico subito. Sono andato in Giamaica per vedere solo dove è nato Bob Marley, toccare il letto su cui è nato e vedere il sicomoro sotto il quale scriveva le sue canzoni. State all'occhio, eh. Bob Marley, mito anche di Matteo Renzi. A lui sarà dedicata la Leopolda del 24-26 ottobre. E ovviamente potete immaginare già cosa gira su internet. Renzi coi rasta, coi capelli, Renzi coi cannoni. E vabbè, cose così. Allora, sono le 6:32 minuti, cari amici. Intanto scriveteci 349-238-6666. Quante ore avete dormito? Ieri festa di Radio 24 per i 15 anni. Ore dormite da me? 2. Ore dormite da Lorenzo Nespoli in redazione? 2 e mezza. Ore dormite da Peter Bescapè in regia? 2. Ragazzi, 6 ore e mezza in 3. Ci svegliamo anche con Peter Tosh a fianco di Bob Marley. E non vorrei mai aprire il Parlamento per farla sentire tutta, eh. Che facciamo? Va bene, va bene. Alle 6:33 minuti. Ma si può dedicare la Leopolda a Bob Marley? Ma che vuol dire questa cosa? Dedicare la Leopolda a Bob Marley, nel segno di Bob Marley. Vabbè, dai, apriamo il Parlamento. Ma lasciala sotto, dai, che... Vai. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Siamo qui, il Parlamento è morto, no, la sigla del Parlamento c'è. Allora, voglio subito salutare Vincino, gran ritorno di Vincino. Ma Bob Marley è mucca allegria, io sto qua a ballare in mutande praticamente con il telefono in mano e poi devo darvi un grande annuncio. Oh, attenzione, cioè? Il premio Andrea 2015, tra virgolette, piange il marmo. Sì? A chi? Con chi? A chi? A chi? Un grazie agli agnelli in più me lo potevano dare. Ma a chi? No, non ho capito. A te? No, il premio da a Luca Cordero di Montezemolo. Il premio piange il marmo. Piange. piange il marmo, no? Che potrebbe essere anche un segno di miracolo, no? Piange il busto. Sì, esattamente, esattamente. Io sono qua da quando mi sono svegliato che leggo questa cosa di quest'altro, questo imprenditore in questa Italia in crisi, un altro proprio come ma che dire, c'è una... subito mi vuoi far subito mettere nei guai, subito concorrere. No, ma che mettere nei guai? Dai, noi siamo nell'era di un altro presidente di Confindustria, presidente se ne fa un altro, quindi i passati che ne frega niente, no? Ecco. Siamo nell'epoca Scanzi. Scanzi, fai bravo, Scanzi, dai. Vabbè, ore dormite 5, ci scrive Katia, ore dormite 4, ci scrive Simone, ore dormite 8, ci scrive uno, un debosciato. 4 e mezzo, Vincino, e Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Buongiorno. Sì, quante ne hai dormite tu? Io serenamente, non mi avete invitato. No, ma certo, sì, vabbè, questo sì, ma voglio dire, sei pur sempre sveglio dalle 6:30 e quindi... Sì, assolutamente, un po' prima, anche per leggere un po' di giornali, poi 5:30, insomma, no, per niente, ho dormito. Fantastico. 6 ore. 6 ore, dai, ma 6 ore, si rigenera tutto in 6 ore, ma che vuoi? Ci scrive 2 ore e mezza di sonno, Michele, ma ho lanciato un mostro. Io 6 ore le dormo in 2 notti, Antonio da Rovigo. Antonio da Rovigo adesso addirittura quelli che c'è questa cosa di vantarsi di dormire poco, Vincino, perché c'è questa cosa di dire no, dormio 2 ore solo, ma perché c'è da vantarsi? Ma io ho dormito 2 ore, mi sento uno sfigato maledetto, avrei voluto dormirne 8, non 12, come dire 12 anche, perché c'è questa cosa invece la gente che si va invecchia e meno si dorme, però te lo dico, ecco, sulla brutta strada questa non l'avevo mai sentita. Confermo. Ecco, e che siete due decrepiti? No. Vincino sì, un po' meno. Vincino dice sì. Ma Vincino, dove sei? In una caverna? No, sono nel... Pronto? Sì, dove sei? A Roma, Mondello. A Roma. No, sono a Roma, nella mia stanza studio, lavoro, sofferenza. Fantastico. Allora, la domanda è questa. Perché, secondo voi, dedicare la Leopolda a Bob Marley? Pensiamo a metterne un'altra. Ce n'abbiamo un'altra di Bob Marley, dai, qualcosa. Dopo Get Up, Stand Up, insomma. Perché dedicare la Leopolda a Bob Marley? Adesso evitiamo le battute, i cannoni, le robe, cioè. Però Bob Marley, insomma, questo è stata... Che allegria, è ottimista Bob Marley, io sono d'accordo. Era. Dai, tu pure, sei partito così, siamo tutti a ballare, dai, va bene così. Vabbè, che dobbiamo fare, insomma. Siamo ottimisti, non lo so, c'erano 4 canzoni pronte, ma così mi hanno detto di Bob Marley. Ecco, appunto. È l'Italia che si muove, veloce, che ricomincia a camminare, dai. Bob Marley. Diciamo sì, è stupenda questa idea, dai, è bellissima. Non lo so, cioè sì, ma è stupenda, ma eccolo qua, quello che ha scritto la cavalcata di Renzi, allora deve dire. Che così devo dire? Sei tu che l'hai buttata là. Ma dai, insomma, Bob Marley, ma cosa c'è? Tortorella, che ci azzecca, direbbe il tuo amico quasi futuribile sindaco di Milano, Antonio Di Pietro. Deve compensare la defezione di Baricco, non lo so. Se Baricco non va alla Leopolda, allora lui ci va andare Bob Marley. Non lo so. Non riesco a capirlo. Ma sono tante le cose che non capisco di lei. Ecco la zampatona, la zampatona. Zampatina. E cos'è che la cosa che più meno capisci di Renzi, dai, su? Allora, ormai non lo seguo più, secondo me non lo segue più neanche la sua mamma. No. Continua a lanciare cifre, prima della ieri diceva che la manovra sarebbe stata da 30 miliardi, da 30, poi diventa da 36, il 7 ottobre diceva che era da 23, sì. Poi si scopre che adesso tutto deve essere fatto da regioni, comuni e province. Il giornalista chiede: scusi ministro, scusi sì. Presidente, ma le province, i tagli delle regioni vuol dire che metterete più tasse locali? Renzi dice: faccio per rispondere Padoan risponde: non lo so. Vabbè, sai a chi lo chiederemo? A Sergio Chiamparino, che alle 8:15 sarà nostro ospite, guarda, ti vengo a sentire assolutamente, sono curiosissimo. Io un'idea ce l'ho. Ecco, attenzione, Vincino, alla quadratura del cerchio. Sì, tutte queste cifre per confondere i tedeschi. per confondere Schäuble là, quello là che guarda malissimo quello. Che squal, squal, Schäuble, Schäuble, dillo bene, dillo bene, Schäuble. Schäuble. Schäuble, bravo. Schäuble. Per confondere Schäuble, che già guarda malissimo là il nostro Draghi e quell'altro, e qui è confuso. Perché poi una la secca, Se lui spara 50 cifre, una sarà quella giusta e via. E quindi c'è l'ho detto giusta, bravo. Sì, poi, effettivamente allora, nella legge di stabilità c'è questo taglio delle tasse, 18 miliardi, la spendi in review, e effettivamente il pallino è in mano adesso agli enti locali. Regioni, comuni alzeranno le tasse per questo. Per la verità, Chiamparino ieri ha detto: se mi costringono ad alzare l'IRAP io mi dimetto, però andremo a vedere. Intanto ci scrivono: ho dormito 6 ore ma devo lavorare davvero, non come voi, ci scrivono. Ascolta, vabbè, questo è un gran classico, ho dormito 2 ore seduto davanti al CPU per la TASI. Mamma mia, ragazzi, Andrea, ho dormito due ore seduto al computer per la TASI e 3 e mezzo a letto, una roba, una serata di quelle devastanti. Mentre io sono panettiere, ci scrive Massimiliano, un grande saluto a Massimiliano da Lecco, sono panettiere, se voglio avere un minimo di vita sociale, massimo 4 ore a notte di sonno mi devono bastare. E poi la domenica appunto la sveglia giusto in tempo per il Milan, mi sembra giusto. Ditemelo anche voi, secondo voi, perché la Leopolda dedicata a Bob Marley? Questo è un po' il mistero del giorno. Come? Un altro mistero è, Vincino, che ci faceva secondo te Oprah Winfrey ricevuta in pompa magna a Palazzo Chigi da Renzi? Sai chi è Oprah? No, quando? Sì, lo so chi è quella. Come quando? Ieri? Ieri, poco prima della legge di stabilità, poco prima della legge. Erano i 40 cinesi ieri, no? Sì, no, oggi. Oggi ci sono. Oggi c'è Putin, cioè ci sono i cinesi, c'è Putin. Ma i cinesi ieri, l'ho visto ieri in televisione che c'era un cinese che parlava in cinese. Quelli erano l'altro ieri, però. Erano altri cinesi. Sì, il premier cinese. Ma è una cosa, guarda, il premier cinese. Cioè, 5.000 persone al giorno, presidenti, cose, si dà per tutto. Oprah Winfrey, anche Oprah Winfrey. Forse per farci aiutare. Qui Tortorella avrà sicuramente una motivazione. Qual è la motivazione di aver ricevuto Oprah Winfrey? Star della star americana, insomma, dello show. Non lo so, ho visto la fotografia, ho visto che lui è sdraiato sulla poltrona con una grande nonchalance, mentre ce l'hai guarda in camera, come il resto fare la vita. È una che è abituata a guardare. È tutto show. No, vabbè, dai, tutto show. Dai, sentiamo Renzi allora sulla spending review. Sentite come vuole tagliare. 15 di spending sono così divisi. 2,7 miliardi vengono dal decreto legge 66, quello degli 80 euro. 6,1 da risparmi che fa lo Stato. 4 miliardi da risparmi che fanno le regioni. 1,2 dai comuni. 0,3 da recupero consolidato. 0,9 dalle misure dell'edilizia. 0,7 da fisco amico. Vincino preciso, cioè le cifre. Non ha detto 1 miliardo da Vincino, non l'ha detto. 1 miliardo da Vincino, no. Non l'ha detto, mezzo da Milan sì, però. Mezzo da Milan sì, e 4 dalle regioni. Chiamparino, 4 miliardi vi succhia. Crocetta, poveretto, là che così. Vabbè, Crocetta, come ben sai, dalla Sicilia, qualche spreco dalla tua Sicilia possono anche... si può tagliare lì, si può tagliare. Siamo qua tutto, se danno i tagli di spesa inutile. Dove sei Maurizio? Dove sei finito? Ma finite nelle caverne. Eccoci qua. Dici. E ho anche scoperto perché Bob Marley, infatti. Ah, attenzione, perché? Perché un suo verso, e tu lo sai meglio di me, sì? Perché tu lo conosci bene, sì? Il futuro è solo l'inizio, future is just the beginning, è il titolo alla manifestazione. Ho capito, ma allora, cioè, perché ha preso un verso di Bob Marley, dedica tutto a Bob Marley. Mamma mia, ragazzi, bravo Tortorella. Vabbè, ma questi qua i giornalisti d'assalto, d'altronde che devi fare. Va bene, sempre Renzi che dice: rispettiamo il limite del 3%, vuole davvero confondere Schäuble, Vincino, ripeti, Schäuble, sentiamo. Una manovra che cerca di espandere e di essere anticiclica in un momento di difficoltà quale quello che conosciamo, e che lo fa rispettando i limiti europei, perché dico anche questa così sia definitivamente chiara: noi rispettiamo il limite del deficit del 3%. Questo si vedrà con l'Europa, eh? Si vedrà con l'Europa. Ieri i giornali raccontavano di una sonora bocciatura già pronta in Europa. Staremo a vedere. Prima del traffico e sulle note di Bob Marley, volete anche voi unirvi all'appello Free Rossella Brescia, che io un giorno vorrei qui al Parlamento, ma gli amici di RDS, tutti pazzi per RDS, non ce la sganciano manco per una mezza mattinata. Vincino, fai un appello per Rossella Brescia, contieniti. Tutti a parlare con Bob Marley, con Rossella Brescia, vai. Contieniti però, eh? No, perché so che tu sei sensibile alla bellezza femminile, contieni. Ieri ero al Parlamento e ho visto la ministra proprio a pochissimo, proprio a un metro e mezzo. Chi è la ministra? Chi? Quale? La meravigliosa ministra. La ministra, con la M maiuscola. È l'unica. La Boschi. Sì, con quelle orecchie e la sbirra che gli escono dai capelli, guarda una cosa. Vincino innamorato della Boschi. Tortorella, tu vuoi unirti al Free Rossella Brescia Contest? Sì, assolutamente, assolutamente, bella Rossella Brescia, è anche simpatica. Vabbè, quindi avete capito, amici di RDS? Sganciatecela per una mezza mattinata, ve la restituiamo integra, traffico. 24 mattino. Io ho visto delinquenti e ladri, ma non come questi politici, sono delinquenti proprio, ma Berlusconi è più delinquente di tutti, e per quando esiste Berlusconi non si farà mai governo. Ma cosa vuol dire, Nile, anche la giornalista della RAI così ha già fatto il suo pezzo con le parole di Grillo, che tanto non ha bisogno di interviste. È come dire che siete tutti uguali, che vi basta fare un po' di casino e allora siete contenti, voi portate pezzo a casa. Ma dite la verità, no? Ciao Mila, sei un po' di sinistra, però anche se non sono di sinistra mi piaci. I cittadini di questa meravigliosa città hanno ormai un piede nella fossa. Il governo si è affrettato a fare questa dichiarazione: non vi lasceremo soli. Presto vi aiuteremo anche a mettere l'altro piede. Milan, ma vuoi sapere veramente una cosa? Vuoi ascoltare Rossella Brescia e parlare con lei? Allora sai come fai? Ti metti alla guida di un bel camion, ti sintonizzi sulla loro frequenza e poi chiedi di parlare con lei. Forse riuscirai a parlarci, ma dalla tua radio non riesci a fare un cazzo. Effettivamente, Vincino, questo camionista, questo qui è, no, che mi ha detto fa il camionista, è un po' più scettico sul fatto che riusciremo a portare Rossella Brescia qui ai microfoni di Radio 24. Vabbè, ma pessimiste queste telefonate. È pessimiste queste. Mannaggia. Tutti pessimisti. La notizia del giorno però è questa. Io l'ho dovuta leggere 5 volte perché non ci credevo. Eccola qua, dove è finita? Mamma mia, mi perdo le cose, vabbè. Me la perdo. Me la sono persa. Vabbè, adesso la ritrovo, perché la devo leggere, perché sennò se non la leggo poi perdo qualcosa. Vabbè, eccola qua. Allora, uomo della Guardia di Finanza arrestato mentre prova a rapinare la villa di un facoltoso capo rom che aveva tentato di vendere una Lamborghini a 11 persone. No, io... no, non ci credo. Sì. È successo a Bergamo. Un uomo della Guardia di Finanza è stato arrestato per essere entrato nella casa di Ratko Dragutinovic, 36 anni, capo rom, re della truffa, uno che è riuscito, no, a vendere a 11 persone diverse la stessa auto, una Lamborghini, senza mai consegnarla a nessuno. Però l'arresto dell'uomo della Guardia di Finanza per avere tentato di rapinare la villa di un capo rom, Vincino. Così è la surrealtà. L'Italia qua è che siamo un paese molto più ricco di quello che sembra. Non, 11 Lamborghini, cioè, come dire, ma non ne aveva manco una. Ho capito, ma 11 persone che la volevano comprare, che hanno dato l'anticipo. Effettivamente. Ci avevo pensato. Effettivamente questa cosa qua, 11 che potevano comprare una Lamborghini. È un paese più ricco di quello che sembra, assolutamente. Io sono proprio io e Renzi siamo fiduciosi nel futuro. Tu e Renzi? Sì, ormai siamo quasi... Vabbè. Che cosa? Come la Milan e Brescia, certo, è chiaro. No, vogliamo parlare di questa cosa. Qualcuno ha capito, Tortorella, tu hai capito cosa sta succedendo a Berlusconi? Oggi sul Fatto Quotidiano c'è questa battuta di Spinoza, invitato Luxuria a cena, l'uveite sta degenerando. Questa è la battuta che circola, ma... Cosa succede? Perché all'interno del centro-destra c'è un insomma un psicodramma per questa. A lui cerca per Vabbè, ma insomma il cambiamento di passo sui matrimoni gay, la Pascale che va da Luxuria. C'è casino anche a sinistra, perché col fatto che vogliono dare il matrimonio gay, ma non fare di fatto, anche lì mi sembra che abbiano sbroccato abbastanza. Ma si sa, il dibattito a sinistra non manca mai. Dopo Papa Francesco, come dire, lui è il più vicino ormai. Ho capito, ma voglio dire, nel centrodestra questi temi sono sempre stati abbastanza... Ma lui non ha politica liberale, tutto ci sta benissimo. Eccola lì, la politica liberale. Tutti gli spiegati ex democristiani insopportabili che ce ne sono rimasti da lui tantissimi. Via, basta, no. Vuole rinnovare qua, assolutamente. Ci abbiamo l'ex sindaco di Pavia e tutti i suoi ragazzini amici. L'ex sindaco di Pavia, sì. Sentite Giovanardi, uno che combatterà l'ancerresta fino all'ultimo, del tipo no Pasaran. Siamo passati dal Family Day ad Arci Gay. Adesso c'è un partito che si chiama Forza Gay, a cui io però non ho aderito. Forza Gay, è il partito Forza Gay a cui io non ho aderito, capito Tortorella? Oggi Gasparri è stato chiamato, io mi oppongo a tutto. Non sono battaglie di retroguardia che non hanno futuro. Lo so. No, è un po'. 2% sono quelli là, dai. È un po' così. Comunque, noi qua volgiamo quasi al termine. Voglio citare la copertina di Panorama senza falsi, senza allarmismi. Però ce ne siamo occupati anche noi da due giorni. La questione di Ebola. Voi dedicate la copertina a questo perché gli errori da evitare, ragazzi. Questa di Ebola è abbastanza, insomma. Fa paura, inquieta, ed è giusto che voi dedichiate la copertina e i controlli e tutto quello che si deve fare anche per migliorare i controlli qui e poi magari fare qualcosa per debellarlo in Africa. No, guarda, se qualcuno ha dei dubbi su Ebola, con questa inchiesta si li toglie tutti, perché è raccontata obiettivamente con una grandissima attenzione e con un numero di informazioni che altrove io non ho trovato, per cui sono molto contento di questa copertina, che mi pare faccia chiarezza su tante cose che appunto è l'ignoranza soprattutto a far paura. Certamente. Più ne sai e meglio è in questi casi. Allora, caro Vincino, intanto il busto di Andreotti che non lacrima. Oggi ho letto sulla stampa che è una finanziaria stile DC. Certo, Renzi è della DC, cioè che... DC, veramente la DC non ce l'ha mai fatta tutti questi numeri così. E il busto di Andreotti che dice? Apposta, sta benissimo, è diventato il premio là, è il marmo, come dire, stiamo a tutto un futuro, dobbiamo portare poi a Expo. Anche io ho questa idea qua, anche gli angeli del fango, finito Genova, devono venire là a Milano a dare una mano, se no non si ce la fa. Ad aiutare a finire l'Expo, finire l'Expo, pensavo a trasportare il busto di marmo. Ma bello anche. Vi saluto, viva la Leopolda, viva Bob Marley e viva pure Rossella Brescia. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:19 minuti in punto, reduci dalla festa dei 15 anni di Radio 24. Abbiamo io, Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè 6 ore e mezza di sonno accumulate in 3. Quindi fate vobis. Fate voi E invece voi, debosciati d'Italia, che state facendo? Noi siamo qui a combattere nonostante le 6 ore e mezza di sonno in 3. Alle 7:19 minuti parleremo di legge di stabilità. Lo faremo con Sergio Chiamparino, presidente della regione Piemonte. Le regioni si lamentano per i tagli che ci saranno. Avremo ospite anche il nostro Oscar Giannino e avremo ospite Massimo Bordignon, che insegna scienza della finanza alla Cattolica di Milano e collabora anche con la voce.info per capire qualcosa di questa legge di stabilità, che certo è il tema più importante che troviamo sui giornali. Giornali che andiamo a leggere in questo giovedì 16 ottobre. Intanto i titoli: Il Sole 24 Ore, manovra da 36 miliardi, taglio a tasse e spesa. Oggi i titoli sono tutti declinati sulla legge di stabilità. Meno tasse sul lavoro, sfida sui tagli, così apre il Corriere della Sera, mentre per Repubblica: manovra da 36 miliardi, TFR in busta paga, l'incubo Grecia fa crollare le borse. Per la Stampa: Renzi, una manovra taglia tasse, questo è il titolo di prima pagina. Il Messaggero: meno tasse e TFR in busta paga. Per Libero: tutte le tasse della manovra, blitz notturno da 36 miliardi. Il Fatto Quotidiano: stangata su comuni e regioni per pagare IRAP e 80 euro. Il Giornale invece: TFR, tagli, tasse, assunzioni, ecco cosa cambierà. Avvenire: manovra da 36 miliardi, ok all'operazione TFR. Come vedete tutti lì vanno a parare i giornali. L'unico che apre sulla Grecia, ed è il titolo a fondo greco, è il Manifesto. Ma certo, la Grecia preoccupa a fianco alla legge di stabilità. Voglio iniziare però a leggere come al solito altre cose. Beh, il dibattito aperto dalla notizia che dava ieri Repubblica, e cioè che le unioni civili sono in arrivo, è un qualcosa che ha lanciato subito il dibattito. Il dibattitone. In Italia si discute da decenni e poi non si fa niente anche in questo campo. Ora il dibattito c'è non solo nel centrodestra disorientato dopo che Silvio Berlusconi addirittura ha invitato a cena Vladimir Luxuria, ma oggi racconta Libero che Silvio Berlusconi avrebbe detto: io sono un liberale, non sono un bacchettone. Certo, Vladimir Luxuria ha esagerato nel rivelare alcune delle cose successe a cena, ma racconta Paolo Emilio Russo: il partito è rivolta, io non sono un bacchettone. Questo Silvio Berlusconi sulla sua presunta giravolta, insomma, anche sull'Unione Civili. Ma tra poco lo vedremo il dibattito nel centrodestra, perché c'è anche il dibattito nel centrosinistra. Qual è la questione che è stata lanciata ieri in questa proposta di legge che fa discutere, fa arrabbiare anche alcuni nel centrosinistra e nel PD? È questa: ma come fanno le unioni civili equiparando le unioni tra omosessuali al matrimonio e non le unioni civili tra eterosessuali al matrimonio? Che cos'è, una discriminazione al contrario? La vede così per esempio Roberto Giachetti, lo scriva, dice Tommaso Ciriaco su Repubblica, lo scriva, si infuria Roberto Giachetti, un'anima radicale, renziano doc: sono furioso, è incomprensibile che questa novità delle unioni civili riguardi e valga solo per i gay. E gli eterosessuali dove li mettiamo? Sarebbe assurdo compiere una discriminazione per eliminarne un'altra. Questo è quello che dice Giachetti. Si difende Ivan Scalfarotto, che è vice ministro e che, intervistato sempre da Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 11, dice sulla legge sulle unioni civili per le coppie omosessuali senza intervenire sulle coppie di fatto. Ma che ragionamenti sono? Scalfarotto: così si oscura il superamento della discriminazione delle coppie omosessuali, che è una grande conquista di civiltà. Beh, ma non negherà che sia un tema altrettanto sentito quello delle coppie eterosessuali non sposate? Cioè, perché dovremmo equiparare con tanto di diritti e doveri le coppie omosessuali a quelle sposate e le coppie eterosessuali no? Sono due cose distinte e separate. Renzi si è impegnato sulle unioni civili alla tedesca, che in Germania sono per i gay. Il tema delle coppie di fatto è un altro. si potrà affrontare o meno. Io nei programmi del PD non li ho letti, sono due bisogni distinti e separati. La confusione coppie gay, coppie di fatto è metodologica, perché alla coppia gay è impedito di sposarsi, a quella etero no. Insomma, Scalfarotto è chiaro nel dire: se un etero vuole i diritti dell'unione civile, si sposa. Se invece non vuole sposarsi, vuol dire che non ha i diritti come coppia eterosessuale equiparata a quella del matrimonio. Invece, siccome i gay non possono sposarsi per legge, è chiaro che solo per loro va garantita per legge una equiparazione, così Iva Scalfarotto. Mentre nel centrodestra il dibattito è più classico, cioè chi si oppone a questa svolta del centrodestra, Francesca Pascale che è andata all'Arcigay, poi Vladimir Luxura che è andata da Berlusconi. Il Fatto Quotidiano va a intervistare Maurizio Gasparri, uno dei più intransigenti su questa linea. Intanto inizia l'intervista così, l'intervista di Alessandro Ferrucci a pagina 6. Pronto, Gasparri, senatore, dove è finito? Perché risponde con una voce bassissima: mi scusi, ma sto presiedendo l'aula. Che già, voglio dire, vi immaginate Gasparri che sta presiedendo il Senato in quel momento e risponde al cellulare. Vabbè, e poi continua l'intervista. Questi cercano gli applausi, dice Gasparri, ma i voti sono un'altra cosa. Guardi Fini, morto politicamente con i temi etici. Io mi oppongo a tutto. Ci dica, lei almeno è favorevole al riconoscimento per le coppie omosessuali? A tutto sono contrario. Ma come, scusi? Sì, a tutto. Siccome dovrà nascere una mediazione riguardo alla questione, allora parto dal no assoluto, altrimenti sono svantaggiato. Quindi un no anche a tutti gli altri temi etici? Beh, vediamo. Fine vita, sono a favore della legge votata a suo tempo anche da Fini. Eterologa, contrario, ma una legge va prodotta, non si può lasciare la gestione al federalismo regionale. Comunque sui gay, no assoluto di Gasparri. E pensate che perfino la Chiesa nel sinodo sta discutendo. Sentite per esempio l'intervista che Paolo Rodari su Repubblica fa al cardinal Gottfried Dannels, 81 anni, grande lettore del Papa José Mario Bergoglio, che dice: la Chiesa rispetta le coppie omosessuali, sì alla legge sui diritti. Gli omosessuali, dice il cardinal Dannels, sono persone come le altre, vanno rispettate, sono uomini come tutti noi. La Chiesa cattolica non accetta il matrimonio tra omosessuali, lo sappiamo, ma se ci sono dei contratti che gli stati intendono riconoscere, senza però che si arrivi a parlare di vero matrimonio, contratti insomma per far sì che gli omosessuali vivano insieme e abbiano certi diritti, è giusto rispettarli. Si tratta di leggi che permettono agli omosessuali di essere nella società ciò che desiderano. Ogni omosessuale infatti ha il diritto ad avere un suo proprio status nella società. Questo il cardinal Dannels, cardinale belga. Vabbè, seguirà ulteriore dibattitone, statene certi. Mentre il dibattito è nato anche in America per una vicenda che riguarda la famiglia, riguarda la maternità, la ricerca della maternità e l'incompatibilità a volte di fare carriera per le donne. È deflagrata a livello mondiale questa vicenda quando si è scoperto che dopo Facebook anche i vertici di Apple che cosa fanno? Alle donne che vogliono rinviare la gravidanza perché nel frattempo vogliono fare carriera e pensano che le due cose siano incompatibili, dice: non vi preoccupate, come benefit vi congeliamo gli ovociti e paghiamo noi dell'azienda. Eh beh, il dibattito è molto molto interessante. Michela Marzano e Federico Rampini lo scrive su Repubblica: i padroni della rete invadono un nuovo spazio tutt'altro che virtuale, l'orologio biologico delle donne. Se volete far carriera nella Silicon Valley, fatevi congelare gli ovuli e rinviate i progetti di maternità, il conto lo paga il padrone. Il dibattito è su tutti i giornali, anche La Stampa, Stati Uniti: ovuli congelati paga l'azienda. Dopo Facebook anche Apple annuncia che coprirà le spese delle donne che accetteranno di rinviare la maternità. E qui ci sono due interviste, chi è a favore, chi è contro, chi dice beh, ma insomma è un venire incontro alle esigenze delle donne, chi dice ma no, ma come, è un volere gestire anche l'orologio biologico, insomma voler gestire i sentimenti, le pianificazioni della vita da parte delle donne, che lamentano spesso, e anche a ragione, di non riuscire a rendere compatibili la carriera e l'essere mamme. Vi lascio prima della pubblicità con il premio Mani sul volante. Vi vedo già pronti per l'articolo che ci fa pensare di questa giornata. È il ricorso vinto per 5.000 studenti, test di medicina bocciati dal TAR, ed è Libero con Simone Paliaga che racconta questa storia. Per carità, a me fa arrabbiare non tanto, non lo so se hanno ragione coloro che hanno vinto il ricorso, i 5.000 studenti, se hanno ragione coloro che vogliono il numero chiuso a medicina, se hanno ragione quelle che vogliono il numero aperto test per tutti, non mi interessa, mi interessa che c'è sempre un TAR. In questo paese ci sono delle leggi, lo Stato stabilisce delle cose, ci sono dei ricorsi e poi c'è sempre un TAR che decide, e io non lo so, ma aboliamolo sto TAR, aboliamolo sto TAR. Oh, il pubblico, ascoltate me in questo istante, perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. Toglietevi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. E chi te lo toglie? Ma chi? No, no, non spingiamoci oltre, chi lo sa. Va bene. Cari ascoltatori, è il giorno della legge di stabilità, ovviamente, che troverete declinata in tutte le salse, analizzata. Il Sole 24 Ore fa un dossier di varie pagine, 16 pagine, tutto dedicato alla legge di stabilità, la manovra 36 miliardi. L'approvazione del Consiglio dei Ministri ieri, come raccontano Marco Mobile e Marco Rogare a pagina 2, una manovra a 36 miliardi che tiene conto dei 2,7 miliardi di tagli alle spese, 2,6 di nuove entrate dall'aumento della tassazione delle rendite finanziarie previsti in entrambi i casi in via strutturale del decreto IRPEF. Vengono confermati 18 miliardi di riduzione di tasse e contributi su imprese e famiglie, in primis attraverso la stabilizzazione del bonus da 80 euro, poi l'azzeramento della componente lavoro dell'IRAP. Viene poi fatta scattare una nuova spending review da 12,3 miliardi, dunque la spending review sale a quota 15 miliardi considerando quella messa in moto dal decreto IRPEF. Al suo fianco anche annuncio della lotta all'evasione fiscale, che dovrà garantire maggiore entrate per 3,8 miliardi. E qui però sull'evasione fiscale c'è sempre il punto di domanda. Uno può annunciare la lotta all'evasione fiscale, poi deve raggiungere i risultati. Comunque, se volete sapere tutto, ci sono appunto 16 pagine di dettagli sul Sole 24 Ore. Certo, uno dei tagli sono annunciati, sono quelli dei 4 miliardi alle regioni. Avremo ospite Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte, nonché della conferenza delle regioni alle 8:15. Lui ieri ha detto: se ci costringono ad aumentare le tasse locali, piuttosto mi dimetto. Renzi ha risposto, ma insomma, lui da liberale qual è in grado di capire come si può fare per evitare l'aumento delle tasse, sta di fatto che le regioni sembrano già un po' sul piede di guerra. Marco Rogari si concentra proprio su questa spending review da 15 miliardi a pagina 6 del Sole. Oltre metà della riduzione di spesa da 15 miliardi del 2015 arriverà da tagli lineari. Ministeri, regioni, enti locali dovranno recepire la cosiddetta regola del 3%, che nel caso della stretta da oltre 4 miliardi a carico dei governatori renderà di fatto quasi inevitabile un intervento sulla sanità. E anche qui ricordate anche Luca Zaia, governatore del Veneto, i giorni scorsi ha confermato: non toccate la sanità altrimenti io scendo in strada. Insomma, questo è quello che è stato annunciato. Renzi ha definito il taglio storico delle tasse, come racconta Marco Galluzza, pagina 5 del Corriere della Sera, è la più grande riduzione di tasse che abbia mai fatto un governo repubblicano. Così si è presentato ieri ai giornalisti, poi ha raccontato tutte le novità. Non è né di destra né di sinistra, è un segnale di grande solidità del nostro paese, così Renzi sulla manovra. A un certo punto Renzi ha anche detto nella lunga conferenza stampa: le province che avranno nei prossimi 3 anni 1 miliardo in meno all'anno da spendere dovranno dimagrire. Ma allora esistono ancora? Siamo nella 76esima settimana decisiva per l'abolizione delle province e invece le province lottano e vivono insieme a noi. Fabio Martini sulla stampa fa un'analisi della manovra dicendo, il titolo è questo: Renzi, come ai tempi della DC, vara la manovra interclassista. Fabio Martini: non era una mattinata qualunque, lo spread tornava su, Piazza Affari andava giù, Bruxelles scrutava minaccioso, ma il presidente del Consiglio, bulimico com'è, ha continuato a occuparsi anche d'altro e non si è lasciato distrarre. Ecco perché non ha voluto rinunciare all'appuntamento con Oprah Winfrey, ricevuta ieri a Palazzo Chigi. Ci sono le foto della star mondiale della TV ricevuta da Renzi. Winfrey, la regina dei salotti TV americani, si è presentata a Palazzo Chigi con vestito rosa confetto e sandali rosati anche loro. Per non parlare poi di una chiacchierata al telefono con l'amico nemico Diego Della Valle. Insomma, Renzi è fatto così. Per lui la politica è fatta di tante cose. Allora, eccola qui, la manovra come ai tempi della DC. È questa la novità politica più grande, una manovra interclassista, un risultato che l'ex giovane democristiano dietro le quinte ha fortissimamente voluto. Sono di nuovo premiati con gli 80 euro i ceti medio-bassi, ma stavolta con gli sgravi IRAP e i nuovi assunti e festa anche per le imprese. E infatti Renzi ha detto: mamma mia, è di più che vuoi, caro imprenditore. L'abbiamo sentito anche nel giornale radio. E un segnale di attenzione c'è anche per le partite IVA a basso livello di reddito. E con un'ulteriore sapienza comunicativa, quella varata ieri, anche una manovra bipartisan. Tra l'altro, scrive Repubblica, è una manovra blindata, come si suol dire. Goffredo De Marchis racconta retroscena a Palazzo Chigi, dovunque c'è la foto di Oprah Winfrey. Oggi non scampate, qualunque giornale compriate c'è questa foto di Oprah Winfrey e Renzi che si fronteggiano. Comunque, Goffredo De Marchis racconta in questa manovra, in questa legge di stabilità, tutto è blindato, Renzi l'ha chiarito ai ministri, l'impianto non andrà modificato alle Camere. La manovra è questa, ha una filosofia precisa che va salvaguardata, i suggerimenti sono bene accetti, ma a saldo zero. Così Matteo Renzi. E la novità in tutto questo, racconta Repubblica, è che c'è stato il silenzio assenso dei ministri, qualche mugugno, ma in realtà tutti si sono, come dire, messi in linea. In tutto questo invece c'è un uomo che prima o poi qualche sassolino magari vorrà toglierselo, è Cottarelli. Cottarelli, sapete che è l'ex commissario ormai della Spending Review, in realtà rimarrà fino al 31 ottobre. Ieri ha fatto un'audizione in commissione vigilanza sull'anagrafe tributaria. Si è presentato, racconta il giornale, con un trolley, insomma quasi a voler simboleggiare che è un commissario ormai in partenza. In realtà dice: rimango fino al 31 ottobre, sono soddisfatto del lavoro fatto. Per il giornale frasi di circostanza. In realtà il titolo è questo, come racconta Gian Maria De Francesco: l'addio al veleno di Cottarelli, questi non sono i miei tagli. Che cosa ha detto Cottarelli? Beh, bisognava tagliare per esempio i comuni, troppi, 8.000 comuni, una cosa che non ha più ragione d'essere. Ma come disse Renzi, la spending review è una decisione soprattutto politica e così non se n'è fatto nulla. Insomma, il giornale racconta che qualche veleno Cottarelli lo lascerà per i tagli, per non essere stato abbastanza ascoltato. Allora io voglio salutare un uomo reduce dalle balere di Radio 24, si tratta di Mauro Meazza, che ieri volteggiava piroettando come un ballerino moderno. per la festa dei 15 anni di Radio 24 e ora avrà ovviamente la stanchezza che lo affrange. No, sono tonicissimo. Buongiorno Alessandro. Beato a te. Beato non so te. Dove mi hai visto volteggiare, mi viene il sospetto che servissero degli alcolici molto più robusti di quelli che ho preso io. No. Ma non voglio entrare in dettagli di poco interesse per gli ascoltatori. Oggi sono molto contento perché oltre alla legge di stabilità, del progetto di legge di stabilità, insomma, con tutto quello che trovi sul Sole 24 Ore, 16 pagine di spiegazioni, insomma, per cercare di approfondirlo a fondo, oggi è l'ultimo giorno finalmente per pagare la TASI, Alessandro. Mi raccomando, perché adesso te lo ricorda il Sole 24 Ore oggi. Hai 14 giorni di tempo se ti vuoi ravvedere, ravvediti. Ti ho visto, ieri sera ho visto che eri un po' tentato dal peccato. No, ma cosa stai dicendo? Quindi cosa stai dicendo? È tempo di ravvedimento. Da smettila. Domani per la TASI è tempo di ravvedimento. Quindi il ravvedimento sprint, che spieghiamo oggi sul Sole 24 Ore, esiste per 14 giorni e nei primi 30 pure ci sono sanzioni ridotte, nei primi 30 dopo la scadenza. E poi guarda che il ravvedimento è anche nella legge di stabilità, perché lo vogliono potenziare, quindi vedi come tutto ruota attorno al ravvedimento, caro Alessandro. È importante il ravvedimento. Ti voglio anche parlare di surroga. Sei preparato sulla surroga? Ecco, la surroga, cioè trasferire il mutuo da una banca a un'altra, ne parliamo su Casa 24 oggi, nelle pagine di Casa 24, perché è una formula che viene spesso utilizzata proprio per ridurre da parte delle famiglie il peso del mutuo per l'acquisto della prima casa. Tutte le spiegazioni a cura di Vito Lops su Casa 24 di oggi. E poi, se vuoi far tornare questi soldi che hai incautamente non detto al fisco e che detieni in paradisi fiscali, ti posso dire che il rientro dei capitali ha fatto un altro passetto in avanti sulla definizione delle norme definitive e si potrà pagare anche a rate. Quindi anche lì ravvediti, insomma, per tornare da dove siamo partiti. È il momento di ravvedersi. Ti stai ravvedendo? Vabbè. Abbastanza. Ecco, allora ravvediamoci intanto che ascoltiamo il traffico. Alessandro Mila, il funambolo dell'informazione. Anche ci sta. Intanto, cari ascoltatori, al Senato i numeri, come si è scoperto un paio di giorni fa, quando per una serie di assenze, insomma una serie di votazioni risicate, il governo ha rischiato di andare sotto, i numeri sono appunto molto molto limati, molto risicati. Ecco allora che tutti i giornali si concentrano su quelli che sono i numeri. Soprattutto è stato decisivo in questo caso il voto di un ex del Movimento 5 Stelle per non far andare sotto il governo. Si tratta di Luis Orellana, ex senatore del Movimento, che infatti è stato preso di mira dagli stessi esponenti del Movimento 5 Stelle, definito sanguisuga, uno degli epiteti più gentili che gli ha dato il deputato suo collega Manlio Di Stefano. Luis Orellana si difende, intervistato da Repubblica, pagina 9: i miei ex compagni mi insultano, ormai sono solo beceri e inutili, io non guardo tanto i social network, che ieri lo hanno ricoperto, sui quali ieri è stato ricoperto di insulti. Alla domanda: lei ha tradito, senatore? Ma io ho solo creduto che al paese potesse essere utile lo spostamento del pareggio di bilancio al 2017. Mi sento libero di votare come voglio. È la Costituzione a darmi questa libertà e quella carta che i grillini dicono tanto di voler difendere. Non avevo idea di essere determinante, ma mi meraviglio che mi attacchi perfino la Lega. I miei ex colleghi che mi attaccano stanno perdendo il lume della ragione. Sta di fatto che il tema c'è, i numeri sono davvero pochi di maggioranza per Renzi in questo Senato. Per il giornale, Matteo trova il suo scilipoti, è Orellana. Era il candidato grillino alla presidenza del Senato, ora gli stessi del Movimento 5 Stelle lo accusano di tradimento, è colui che col voto ha salvato il governo. Vorrei però andare alla cronaca, ancora con Ebola. Ci sono tante notizie, tanti articoli. La preoccupazione soprattutto è dell'America, con Obama che dice ai leader europei: dovete fare di più. e c'è la polemica lanciata al sindaco di Padova Bitonci, che ha chiesto un certificato per chi proviene dall'Africa, soprattutto pensando alle persone che sbarcano con i barconi. Al che risponde il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini dicendo: Bitonci è il vero malato, è affetto da razzismo. Intervistata da Repubblica da Alessandra Ziniti, il sindaco di Lampedusa dice: l'Ebola in Italia dal mare non può arrivare. Lo ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo ha detto il Ministero della Salute. Temo invece il contagio della malattia da cui è affetto il sindaco di Padova, il razzismo. Si facciano riconoscere lui e questi sindaci razzisti che danno un'immagine incivile del Veneto e dell'Italia tutta, se Bitonci ha chiesto a tutti i sindaci del Veneto di fare fronte comune. Si facciano vedere. Vabbè, io spero che in Italia quella che è una situazione da considerare nella sua serietà non trascenda poi in dibattiti appunto all'italiana. Oggi Gino Strada fa un'altra intervista, capo di Emergency, leader di Emergency dalla Sierra Leone, intervistato dal Fatto Quotidiano, racconta a Caterina Grignani come in quel paese la situazione sia davvero fuori controllo. Siamo di fronte alla più grande epidemia di Ebola nella storia. Questa è la situazione in Sierra Leone ed è diversa dalle precedenti perché si sta diffondendo da un paese all'altro. Qui in Sierra Leone la struttura sanitaria è estremamente fragile. Non dimentichiamoci che è un paese che è uscito da anni e anni di guerra. Gli ospedali sono strapieni e da metà di settembre abbiamo un nuovo centro a Lacca, non lontano dalla capitale Freetown, con 22 nuovi posti letto, ma non bastano, ci sono persone che rimangono fuori. Insomma, la situazione non è certo delle più facili, per usare un eufemismo. Vabbè, c'è qualche notizia di cronaca che mi ha colpito. La prima è questa. Allora, il Fatto Quotidiano racconta la storia di questo europarlamentare che avevamo citato anche la scorsa settimana, uno che ha 16 incarichi extraparlamentari, anzi no, si difende lui, sono appena 7. Si tratta dell'europarlamentare PD Nicola Caputo, che in una classifica in dossier di Transparency International è stato messo appunto tra coloro che hanno più incarichi europarlamentare, ma anche altri 7 incarichi. Consiglieri del consorzio tutela dei vini DOC, no, li si è dimesso poi nell'Allaci, ma lui dice: io lavoro 5 giorni a settimana a differenza del giorno e mezzo canonico di molti colleghi, ho liberi solo il sabato e la domenica e non vedo mio figlio da 10 giorni. È la classica difesa di chi dice così, come se gli fosse stato imposto dal medico fare l'europarlamentare. Ma la notizia del giorno, per certi versi ho dovuto leggerla 5 volte, non solo perché ho dormito solo 2 ore questa notte, ma perché davvero letta così nel titolo del Corriere della Sera mi ha fatto un po' sobbalzare. Armando Di Landro e Maddalena Berbenni raccontano cosa è successo a Bergamo. Un uomo della Guardia di Finanza arrestato mentre prova a rapinare la villa di un facoltoso capo Rom. Voi capite che c'è tutta una serie di luoghi comuni che vengono sovvertiti in questo titolo, e invece è successo così. È stato arrestato un militare della Guardia di Finanza che ha fatto irruzione nella villa di Ratko Dragutinovic, 36 anni, peraltro lui anche re della truffa, in passato era riuscito a vendere a 11 persone la stessa auto, una Lamborghini, senza venderla poi di fatto a nessuno. E un uomo della Guardia di Finanza è stato arrestato perché è entrato nella villa del capo Rom, re delle truffe, e voleva rapinarla. Voi capite che ce n'è davvero per consegnare il dossier a Zelig. Vabbè, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato oggi sui giornali vince. Wanda Marra sul Fatto Quotidiano a pagina 4 ci si interroga in tutte le salse su che cosa? La Leopolda, il titolo è Leopolda, il gioco di Matteo. L'email d'invito firmato dal ministro Maria Elena Boschi è arrivata a tutti i deputati e tutti i senatori lunedì scorso, e tutti i senatori e i deputati devono segnalare entro venerdì a ora di pranzo, e poi l'organizzazione deciderà chi inserire e chi no, se interverranno o no alla Leopolda. Ma chi se ne frega? Mattino. Sono le 8 e 20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, la manovra da 36 miliardi, questo è ciò che è uscito dal Consiglio dei Ministri. Dice Renzi, il taglio delle tasse da 18 miliardi è confermato, il più grande taglio delle tasse di un governo repubblicano. È stata annunciata anche una spending review, un taglio alla spesa di 15 miliardi, 6 dei quali a carico degli enti locali, 4 di questi alle regioni. I dettagli ovviamente poi si vedranno nei prossimi giorni, ma le regioni hanno già lanciato l'allarme: con questi altri 4 miliardi di tagli il rischio è quello di dover aumentare le tasse locali per fare quadrare i bilanci. Questo rischio è davvero concreto? Lo voglio chiedere a Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, presidente della Conferenza delle Regioni. Buongiorno Chiamparino. Buongiorno. È davvero un rischio concreto l'aumento delle tasse locali? Il rischio sì, ovviamente nessuno di noi lavora per aumentare le tasse, anzi, sia perché nessuno piace aumentare le tasse, sia perché è giusto ridurle per far ripartire il sistema paese, però 4 miliardi sapendo che il 75% della spesa delle regioni è sanità, si fa in fretta a fare i conti, vuol dire, tenga conto che vuol dire azzerare, come minimo vuol dire azzerare l'aumento previsto del fondo sanitario. Quindi questo, nel fondo sanitario erano già ricompresi, per capirci, i risparmi della siringa che deve costare allo stesso modo. Quindi la vede un po' pessimista, insomma. Io ritengo che sia necessario intanto poi andare a vedere i dettagli, perché poi a volte le quantità, pur restando le stesse, possono essere diversamente assorbibili a seconda di come vengono modulate concretamente, quindi i dettagli non sono irrilevanti, però certamente 4 miliardi sono tanti. Io le do un'idea, al netto della sanità, quindi l'insieme dei beni e servizi acquistati dalle regioni è di poco superiore ai 3 miliardi e mezzo. Quindi se me ne toglie 2, ci ha ammesso che 2 li tolga dalla sanità, sì, che sarebbe il maggior incremento del fondo, quindi diciamo salta l'incremento del fondo, gli altri 2 li deve togliere da un insieme di spese che, ripeto, hanno quelle dimensioni. Però guardi, ieri Renzi proprio in conferenza stampa ha detto: conosco Sergio Chiamparino come grande riformatore, quindi troverà il modo per tagliare senza con lui, come immagino altri governatori. Ma io lo ringrazio per il riconoscimento di riformista doc, diciamo, però e ovviamente non solo io, ma anzi altri presidenti che più di me hanno regioni con situazioni finanziarie meno critiche, perché poi non sono tutte uguali le regioni. Io credo faranno ogni sforzo per non aumentare le tasse, ripeto, perché per quelle ragioni che ho detto prima, sì, a nessuno piace, e tutti siamo consapevoli che il sistema Italia riparte se c'è meno pressione fiscale sulle imprese e sulle famiglie. Dopodiché però il servizio sanitario è un servizio di primaria importanza. Lei sa che ci sono anche altri governatori, Luca Zaia ai giorni scorsi proprio a questi microfoni, e l'ha ribadito più volte, dice: se mi tagliate la sanità, io che sono in una regione virtuosa sono pronto a proprio mettermi in strada, insomma, a fare proteste. Guardi, il problema, come dicevo prima, che sulle regioni il 75% a dir poco è spesa sanitaria, poi c'è il trasporto, il resto sono cosucce, quindi è difficile quando le dimensioni quando i tagli hanno quelle dimensioni è difficile sfuggire al rischio che si vada sulla sanità, e quindi sanità vuol dire o tagli o tasse o ticket. Ma lei confida che si possa cambiare? Perché guardi che Renzi ha detto, pare ai ministri, che la manovra è blindata, cioè va bene i suggerimenti ma l'impianto è questo, non bisogna cambiare nulla alla Camera. Sull'impianto sono io il primo a dire che va nella direzione giusta, quindi guai a metterlo in discussione. Sul modo come si realizza io credo si possa discutere, perché per esempio adesso butto lì una cifra a caso, perché dato che ragioniamo solo sulle slide e non sui dettagli, ragiono anch'io a slide. 1 miliardo in più sui ministeri, 1 miliardo in meno alle regioni, secondo me è una cosa che ci sta. Ah, potrebbe essere un'idea. Perché il discorso delle siringhe vale anche per i ministeri. tanto per essere chiaro. Tagliare di più ai ministeri. E presidente Chiamparino, le voglio presentare Oscar Giannino, il nostro Oscar Giannino, col quale poi chiacchiereremo più a lungo. Oscar, buongiorno. Buongiorno. Se vuoi fare una domanda, intanto approfittando della presenza di Chiamparino. Ma presidente, posso chiederle, al di là delle regioni, no? sul resto delle entrate, perché ieri Renzi è stato sincero in conferenza stampa, quando gli hanno chiesto ma le regioni possono alzare le tasse, lei ha già risposto, ma anche Renzi ha detto non posso escluderlo, ecco. Però detto questo, nella manovra ci sono anche delle cose aggiuntive di tasse. Posso chiederle, secondo lei, questa sberletta che è prevista per la previdenza complementare, integrativa e così via, cioè questi 3 miliardi e 8 che vengono da aumenti di entrata su il risparmio, la previdenza complementare, alle fondazioni, lei dice ne vale la pena perché alle imprese diamo tanto con l'IRAP? Sì, io tenderei a rispondere di sì, Giannino, cioè nel senso che secondo me il gioco vale la candela, diciamo, perché indubbiamente chiunque come lei conosce più di me il mondo delle imprese sa che l'IRAP è da tutti vista come uno dei gravami fiscali più significativo, specie proprio sul lavoro e quindi sulla la spinta ad assumere, diciamo. E quindi io credo che quello sì, tenderei a dire, mi sembra, adesso anche lì col beneficio di inventario che conosciamo solo le slide, certo. Però direi di sì, mi pare che lì il gioco valga la candela. La mia proposta è facciano invece, ripeto, 1 miliardo in più che di razionalizzazione dell'attività dei ministeri, secondo me ci sta. Posso farle un'osservazione? Non era meglio prendere un po' delle proposte di Cottarelli e chiedere un po' meno alle autonomie? Perché voglio fare un esempio, cioè invece che dire 4 alle regioni, 1,5 ai comuni e così via, Cottarelli ha elaborato da aprile un bel po' di proposte, per esempio. Sono rimaste nel cassetto, Oscar. No, molte, ma quelle centrali, dai prezzi di acquisizione centrali, non sanitari, alle forze dell'ordine, insomma, li conosciamo. Perché questa roba, secondo lei, da come conosce il governo e Renzi, è rimasta, come dice Milan, nel cassetto? È quello che dico io, perché non vorrei, Giannino, avere il copyright, però l'ho detto prima io, che 1 miliardo in più sui ministeri, secondo me si può fare. Il problema è perché le burocrazie ministeriali sono più forti delle burocrazie delle regioni. Che cosa potete fare, presidente? Cioè, pensate di discutere? Ma io adesso, guardi, fra un'ora ho la riunione con i colleghi della conferenza, ma chiederemo, credo, un incontro al governo. Almeno io proporrò che si chieda un incontro al governo, intanto a tempi rapidi, per vedere i dettagli, perché ripeto, a parità di quantità non è rilevante come queste vengono ricavate, diciamo, le modalità. E poi per fare la proposta, adesso io ho buttato lì una proposta, ci ragioneremo, ieri la commissione nostra si è riunita, ha elaborato un documento che consegneremo al governo. Ripeto, il senso però credo non possa che essere quello, riduciamo sulle regioni, e io credo che il discorso valga anche per gli altri enti locali, e ci si faccia carico un po' di più di spending review, razionalizzazione dell'acquisto dei beni sullo Stato centrale. Per concludere, presidente, che voto darebbe a certo dalle slide, che voto darebbe? Cioè una manovra per quel che riguarda ovviamente gli enti positiva, locali? Ma positiva. Io sicuramente un bel 7 dal punto di vista del, per dire, per tenermi dalla parte, diciamo, mettendo insieme le critiche che faccio come presidente della regione, quindi la manovra è positiva, e guai a mettere in discussione il senso generale. Credo si possa renderla anche un pochino più equilibrata e sostenibile per le regioni e gli enti locali. Oscar, se hai un'ultima osservazione, poi dopo approfondiremo invece, liberando il presidente Chiamparino. Chiamparino, secondo lei perché la tassa unica sugli enti locali, che era stata promessa e che serviva ad arginare il fatto che gli italiani stanno pagando la tassa e si rendono conto di cosa vuol dire, è saltata? L'avete chiesto, l'hanno chiesto quelli dell'ANCI, secondo lei, di non metterla dentro per evitare che... È un po' che adesso sono qualche anno che con l'ANCI non frequento più direttamente, ma non mi pare che l'abbia stato chiesto dall'ANCI. Probabilmente c'erano delle difficoltà tecniche di elaborazione, perché mi risulta che si voglia introdurre dal prossimo anno, o almeno ho visto sui giornali questo, e secondo me sarebbe corretto, perché almeno semplificherebbe. Intanto, presidente, la ringraziamo. Stiamo a vedere che succederà in questa questa riunione, insomma, della conferenza delle regioni. Sergio Chiamparino, presidente della regione Piemonte, e con Oscar Giannino ci risentiamo dopo la pubblicità, ovviamente, a parlare anche, e vorrei capire, caro Oscar, se ci puoi anticipare qualcosa, l'Europa come si comporterà? Ci guarda con sospetto? Perché adesso è lì, no? La partita anche. Sì, è lì la partita, vedremo. Cioè, in realtà Renzi e Padoan propongono un criterio che è diverso da quello europeo. Sì. Secondo me era meglio farlo esplicitamente nel corso dell'estate, e la posizione di Renzi, tanto per essere chiari, è: dicano quello che vogliono, io mi tengo in mano 3,4 miliardi nella legge di stabilità, e entro lì faccio quello che vogliono, altrimenti dico andate a quel paese, ecco, in sintesi. Ah. In estrema sintesi, cioè arrivare, sì, come scrive qualche giornale ieri, vuole creare un caso Italia in Europa, proprio per... Se non si tirerebbe indietro. Per aprire un dibattito anche sul rigorismo o sui bilanci rigorosi o sulla necessità di andare verso una crescita. Tra poco ritorniamo con Oscar Giannino, ci aggiunge anche Massimo Bordignon, che insegna Scienze della Finanza alla Cattolica di Milano. 24 mattino. Allora, abbiamo ascoltato poco fa Sergio Chiamparino dare un 7 alla manovra come impianto generale, certo, però lanciare il grido di allarme da parte delle regioni che si vedono decurtate di 4 miliardi come tagli da fare, e dire, beh, visto che il 75% del bilancio della sanità delle regioni, delle regioni è proprio legato alla sanità, è un po' difficile non arrivare alla fine a un taglio doloroso. Siamo con Oscar Giannino e voglio salutare anche Massimo Bordignon, che insegna Scienza della Finanza della Cattolica di Milano e collabora alla voce.info. Buongiorno professore Bordignone. A voi. Allora, fa bene secondo lei, fanno bene gli enti locali a lamentarsi? Il Chiamparino ci diceva, per esempio, perché non un taglio di un miliardo in più al ministeri e quindi allo Stato centrale, e un miliardo in meno agli enti locali? Potrebbe essere questa una proposta. Lei come giudica questa manovra nel complesso? La manovra nel complesso la giudico coraggiosa e anche rischiosa, però mi sembra che, date le condizioni in cui c'eravamo, 3 anni di recessione, non era possibile fare altrimenti. Adesso è un po' una scommessa, vediamo che cosa succede. Sul riparto di chi paga, beh, insomma, mi sembra che sullo Stato centrale ci siano 6 miliardi di risparmi, 6 miliardi sugli enti locali, la spesa pubblica è divisa più o meno a metà in termini di competenze delle pensioni, quindi tutto sommato come redistribuzione del carico mi sembra ragionevole. Bisogna capire poi in maniera un po' più dettagliata come verranno costruiti questi tagli, perché per il momento sono proprio chiaro, anche cifre lanciate lì e non si capisce. C'è da dire però che se alla fine le regioni ci vengono ad aumentare le tasse locali, voglio dire, Renzi dice abbiamo tagliato le tasse per 18 miliardi, il più grande taglio della storia dei governi repubblicani, ma se poi ci ritroviamo con le tasse regionali aumentate, ragazzi, non c'è moltissimo che le regioni possono fare in realtà di tasse, che altro l'intervento, perché adesso poi con l'IRA ridotta in questo modo è chiaro che poi l'IRA era lo strumento principale di manovra che avevano le regioni, adesso qui non c'è più e quindi poi gli spazi sono minori. Io penso che gli interventi, se ci sono, ci saranno soprattutto sul campo della sanità, e quindi possono essere sotto forma di ticket o riduzione di prestazioni o spostamento in avanti di prestazioni. Questo mi sembra il rischio più grosso sul fronte della sanità, più che un incremento proprio delle imposte di carattere locale. Diverso il caso dei comuni, dove però a questo inasprimento c'è anche questo, la possibilità, insomma, di questo miliardo in più per ridurre il patto di stabilità. Mm. Sì, è chiaro che il ticket poi alla fine, se la vogliamo vedere come una tassa, non so, Oscar, la possiamo vedere. Mi faccio solo aggiungere una cosa soltanto per dirlo, perché insomma la sanità, d'altra parte c'è poco da fare, insomma la sanità insieme alle pensioni rappresenta più del 50% della spesa corrente dello Stato, quindi è difficile fare interventi significativi non tocchino queste voci, purtroppo. Per esempio, Oscar Giannino, tu hai prima citato Cottarelli e ieri Cottarelli in un'audizione parlamentare ha detto, ma per esempio i comuni così tanti, accorparli, visto che non ha più senso che esistano 8.000 comuni, di cui alcuni micro comuni, eppure queste proposte effettivamente è come dice Renzi, cioè poi la spending è una scelta politica e politicamente non si è deciso ad andare in alcune direzioni che Cottarelli aveva suggerito. Non è come dice Renzi, cioè io sono meno benigno dei giudizi che sento. No, Renzi dall'inizio, dal giorno in cui il governo entrò in carica, quando Cottarelli presentava le slide, lo guardò con un certo distacco, facendo capire questo signore è stato messo da Letta insomma, sì, faccia le sue proposte, ma poi, come si vede, torna a Washington. Allora, il problema è che la ridefinizione del perimetro dello Stato su cui hanno lavorato i commissari alla spending review che sono succeduti, quella roba lì alla politica non gli entra in testa. Cioè, Cottarelli già ad aprile aveva dettagliatissime proposte su tutto l'universo delle 8.000 partecipate locali di primo livello. Il famoso obiettivo ne rimangano 1.000, cioè comunque qualcuno in più del totale di quanto non ce ne siano in tutta la Francia. La Francia statalista non ne ha neanche 1.000 di partecipate locali, noi ne abbiamo 8.000, e lo stesso Cottarelli diceva io di 1.200 altre non ho nessun dato. Ecco, tutte quelle proposte lì di cessione e fusione di migliaia di partecipate locali, e quello che poi ha detto anche ieri, criteri per la fusione dei comuni e così via. Noi abbiamo 5.800 comuni su 8.000 che stanno sotto i 5.000 abitanti, sotto la soglia dei 15.000 abitanti non è possibile immaginare di offrire servizi in maniera economicamente equilibrata. Tutta quella roba lì che significa toccare la carne viva, sì, dello Stato, no, dei partiti, diciamole cose come stanno, quella roba lì non c'è. Come, non c'è. Come ha detto su questo per me Renzi sbaglia proprio. Come ha detto Renzi, io non voglio meno sindaci, voglio meno sindacati. Lui poi è stato sindaco, colui che governa col metodo dei sindaci avrebbe potuto togliere qualche poltrona ai sindaci. No, ma non esiste. Cioè, ripeto, politicamente parlando, 5.800 comuni sotto 5.000 abitanti sono un nonsense. Proprio non esistono. Avere 1.200 partecipate controllate locali che hanno più amministratori che dipendenti, sì, è un nonsense. Sulle 2.000 multi-utilities, altra cioè cosa che non c'è, voglio dire, dei grandi servizi pubblici, che 650 abbiano un fatturato inferiore ai 4 milioni di euro l'anno, è un nonsense. E così via, se volete continuo, ma non è questo il punto. Tutta questa roba non è neanche sfiorata. Per questo, quindi, prevedere le nuove tasse sulla previdenza complementare che ci sono nella manovra, tanto per essere chiari, avere rincarato l'aumento di aver rincarato la scelta di confermare l'aumento della tassazione sul risparmio, piacerà alla sinistra perché fa tanto picchetti, ma non è vero, tanto per cominciare, che ci sono i famosi 18 miliardi di meno imposte, perché ha la scelta coraggiosa sull'IRAP, coraggiosissima, sì, e giusta, sacrosanta, e ha la scelta di confermare il bonus 80 euro, aggiungere anche, va riconosciuto, una cosa per le partite IVA in regime forfettario, però tu devi sottrarre le nuove entrate che sono che ci saranno. Quindi il saldo non fa 18 miliardi. E il saldo, e poi lo vedremo se le regioni aumenteranno le tasse, che, come ci ha detto il professor Bordignone, è una delle strade quasi inevitabili. No, professore, mi sembra di capire che non ci sono molti margini per le regioni. Chiaramente qualche cosa dovranno fare, 4 miliardi non sono facili da tirare fuori su una spesa complessiva intorno ai 130 miliardi, di cui però l'80% sono sanità. Mi fa aggiungere una cosa perché, sì, è divertente. Il rapporto sui comuni, praticamente sulla riduzione dei comuni, la dimensione, sì, e la riduzione dei costi della politica, l'ho scritto io per Cottarelli. Esatto. Ah, infatti, ecco appunto. E come mai è rimasto nel cassetto? Questa è una domanda interessante, non lo so. È una cosa che mi chiedo. Certo, non ce l'ha lei la risposta. Però, o meglio, forse la risposta c'è, perché è una scelta politica, no? Evidentemente. Però, secondo lei, Cottarelli è stato emarginato cioè era l'uomo di scelto da Letta e quindi da un altro governo, e quindi non andava bene quello che proponeva lui? Ma in parte c'era questo problema, in parte c'è questa situazione, bisogna essere anche un pochino espliciti di questo stranissimo ruolo che il commissario sulla spending review ha raggiunto in Italia. Da questo punto di vista Renzi ha ragione, nel senso che queste sono scelte di carattere politico, vanno prese dalla politica, non può essere un commissario tecnico che decide domattina che i comuni da 8.000 diventano 5.000 o 4.000. Quello che magari è mancato rispetto a quello che sembrava, diciamo così, l'impostazione iniziale anche di Cottarelli, una maggiore diffusione di quelle che sono state, che erano le proposte, la possibilità di un dibattito aperto, politico, su quelle che erano delle proposte. Ma anche qui sembra che le proposte siano state fatte e si hanno detto no, non divulgarle, tieni nel cassetto. Sentiamo Luca da Torino, buongiorno, il primo ascoltatore, Luca. Buongiorno, volevo parlare appunto dell'intervento di Chiamparino. Sì. Il suo punto di vista di razionalizzare questi tagli va bene, ma non è accettabile che un presidente di una regione che in una situazione finanziaria di questo tipo come il Piemonte continui a dire che è difficile tagliare, la sanità non si può toccare, quando sappiamo tutti che il federalismo ha portato dei buchi pazzeschi alle regioni. La sanità sembra non aver applicato i costi standard, il 50, se lo vediamo, il 50% dei dipendenti della sanità sono amministrativi e non sono infermieri e medici, i sistemi informativi non si parlano nella regione, non sanno neanche come fare un bilancio, forse qualcosa da razionalizzare. Dice, prima di aumentare le tasse lei dice c'è qualche margine di intervento in realtà. Perché questo non è l'approccio, che è, non è accettabile un approccio di questo. Va bene, questa è la sua critica politica, Chiamparino, andiamo a sentire il traffico per entriamo. E allora, sono le 8:47 minuti, sentirei Roberto da Trani, buongiorno Roberto. Buongiorno a lei, intanto volevo dire che dottor Giannino ha sempre ragione nel suo intervento, sembra molto preciso e raggiunge sempre lo scopo della sua comunicazione. Io ho sentito Chiamparino che parlava, sì, che il bilancio delle regioni è il 75%. Allora, la sanità. Allora, il 75% del bilancio regionale è la sanità. Perfetto, io sono di Trani, pugliese. Sì. Zaia ha ragione, e lo dice uno che è del sud, cioè non è possibile il famoso esempio della siringa, evidentemente Zaia comunica a tutti i presidenti di regione del sud dove comprare le siringhe, il problema non è migliorare il servizio, sì, e il mio servizio non si migliora aumentando la dice Zaia ha ragione se dice io mi metto in strada a protestare tagliano la sanità perché da me una siringa costa 4 centesimi. Perché secondo me i presidenti di regione si mettono in una bella stanza e si guardano in faccia e sanno dove c'è lo spreco. Quindi la regione tipo del sud o quelle note che sprecano o che non hanno avuto i bilanci, mi risulta, tipo la Calabria, vadano a ridurre i costi. Non è che aumentando la spesa si migliori il servizio. Quindi bisogna migliorare il servizio ottimizzando la spesa. Questo, Roberto, è una proposta di buonsenso, i cosiddetti costi standard. La frase giusta di Zaia, peccato non l'abbiamo qui, mi sono dimenticato di farla tagliare. La frase giusta, caro Oscar, che ci ha detto Zaia la scorsa settimana, è non mi rompano le palle che da me la siringa costa 4 centesimi, da altre parti 20 centesimi, vadano a rompere le palle a chi la paga 20 centesimi. E invece cosa succede? Tagli lineari del 3% delle regioni. Sì, però possiamo, scusami, a beneficio di chi ci ascolta e se il professor Bordignon giustamente che segue da anni i dossier relativi al costo comparato, magari ci aiuta anche a capire meglio, però guardate che il criterio attraverso il quale si fa il finto costo standard sanitario, cioè mettendo insieme regioni con finanza sanitaria più sana con altre che invece sono più scassate, questo criterio qui, quello che io chiamo del finto costo standard sanitario, questo criterio qua lo hanno voluto i presidenti delle regioni che hanno negoziato duramente con il governo negli anni, perché come ovvio pesava molto quella parte di regioni che sono sotto programma coatto di rientro sanitario, come il Lazio, come la Calabria e così via. Quindi poi i presidenti di regioni stessi che hanno concordato tra loro e hanno molto premuto perché ci fosse un criterio di costo standard che sovrarrappresentasse la parte non virtuosa di costi sanitari regionali, sono gli stessi che poi in pubblico ai loro lettori dicono non mi rompete le scatole, questo è un po' troppo comodo. È troppo comodo. Professor Bordignon, com'è questa questione, come finirà questa questione delle regioni e della sanità? E non sono costruiti come uno si aspetta che si siano. Cioè sono sostanzialmente delle quote pro capite ridivise a secondo dei livelli e ridiviste in maniera diversa alle regioni. Quello che dice Giannino è giusto, secondo me lì veramente razionalizzazioni importanti possono venire fuori soprattutto da queste nuove centrali d'acquisto e l'estensione, perché in realtà i costi standard sulla sanità così come costruite ora, per essere molto chiari, la famosa sanità non ce l'hanno dentro. Ma anche lì le centrali d'acquisto dovevano essere ridotte o dovranno essere ridotte da 40.000, 32.000, quelle che sono a 1.000, no, questo si è sentito varie volte. Dovrebbero essere state ridotte a 32, di cui ce ne dovrebbe essere stata soltanto una a livello regionale. Questo naturalmente può essere una forte semplificazione, perché l'esperienza ti dice che Quello, gli acquisti di beni e servizi sottoposti a Consip riducono i prezzi di circa il 20%, anche se poi richiedono un'organizzazione molto forte. Cosa impedisce di farlo? È una questione di tempo o c'è una resistenza? Ma anche... naturalmente ci sono anche delle resistenze politiche, cioè questo non, cioè non bisogna far finta, qui sono tutti contro gli sprechi, poi nessuno si rende conto che dietro lo spreco c'è sempre qualcuno che ci prende dei soldi, perché se lei fa il, cioè il motivo per cui alla Consip non era stato consentito di estendere fin dall'inizio gli acquisti a tutti i beni e servizi è perché si voleva difendere anche imprese locali che in quel caso non avrebbero potuto garantire quel tipo di servizio. Questa è la realtà. Sentiamo Emiliano da Trento, ci chiama. Emiliano, buongiorno. Sì, buongiorno, saluto a tutti. Io quando ho chiesto di parlare non sapevo che c'era anche Giannino, per cui sì. Come dire, è tanto di quello che volevo dire del... Vabbè, dica la sua, dica. Sì, lo dico, no, qualcosa. Semplicemente io sì, aggiungo il fatto che sono scattato quando lei ha commentato la notizia. Ci sono i tagli, c'è cioè la nuova legge di stabilità, probabilmente nuove tasse a livello locale. E lei ha commentato e riportato, ma sono scattato quando Chiamparino ha detto allora tasse in più a livello regionale, perché purtroppo dovremmo dare un milione in più, cioè, chiedere un miliardo in più a livello centrale, perché noi siamo le regioni, eccetera, eccetera. Io quello che vorrei far capire è che dovrebbero arrivare al punto di considerare il discorso aumento tasse un tabù. Non devono più parlarne, perché siamo arrivati alla fine. Dovrebbero innanzitutto ricordarsi l'articolo. Ma guarda, che lo stesso Chiamparino dice: io l'ultima cosa che voglio, due giorni fa addirittura ha detto: se mi costringono a aumentare l'IRAP io mi dimetto. Poi adesso ha sfumato un po' la situazione. Sì, ma non devono più parlarne. Cioè, l'articolo 53 se lo dovrebbero ricordare, stampare ogni giorno un post-it sullo specchio. Però un bilancio in cui no, ma è non chiaro, devono più parlarne, perché Oscar deve diventare un vilipendio alla bandiera italiana. Parlare di aumento di tasse per i prossimi 15 anni diventa un diritto, un vilipendio alla bandiera italiana, penale. Reato penale, esatto. Anche solo parlarne, Oscar, pane per i tuoi denti. No, sono d'accordo, ma non funziona così, c'è poco da fare, non funziona così. E anche in presenza, ribadisco, di una scelta che è quella più procrescita delle finanziarie che vediamo in tutti questi anni di crisi italiana, cioè la decisione di abbattere tutta la componente lavoro dell'IRAP, quindi tutta la componente che le imprese dovevano pagare anche quando erano in perdita, un'anomalia solo italiana, pur in presenza di una scelta coraggiosa come questa e di altre cose positive, perché poi c'è anche l'abbattimento della contribuzione per i neoassunti a tempo indeterminato per 3 anni e così via, però pur in presenza di questi c'è poco da fare. Non aver imboccato con decisione la scelta a cui hanno lavorato tanti come Bordignon, bravi, indicando cosa fare con precisione, indicando poi la politica deve tradurlo in pratica, mica il professor Bordignon o Cottarelli si erano ficcati in testa di sostituirsi con un golpe tecnico la politica, però la politica li fa lavorare, loro producono ottime proposte analitiche, diagnosi, e ci hanno anche aiutato a far capire in profondità meglio le mille pieghe che non c'erano nella contabilità pubblica. E però la politica poi non riesce a farle questi tagli, non vuole farli. Dietro quello che dice Bordignon, cioè perché non unifichiamo gli acquisti, c'è una intesa in cui pezzi di mondo delle imprese private campano solo grazie ai prezzi e alle relazioni degli amici e degli amici politici, perché altrimenti non potrebbero stare sul mercato, e quindi danno anche un calcio nelle palle alle imprese che non vivono di relazioni politiche. E quindi sono interessi. E migliaia e migliaia di uomini dei partiti nella sanità e nelle partecipate locali. Questo è il punto di fondo, e mi dispiace, su questo Renzi parla. Ma non a me fatto. Anche al telefono, quando dice che critico troppo, mi dice: ma no, sto facendo. Io queste cose continuo non le a vedere. Intanto non abbiamo affrontato tutta la questione europea, ma chissà, la legge di stabilità ora viaggia verso Bruxelles, e questo è un capitolo magari che affronteremo in un'altra occasione. Non c'è più tempo. Ringrazio Oscar Giannino, lo ritroveremo alle 16.30 ovviamente con la versione di Oscar qui a Radio 24, così come ringrazio il professor Massimo Bordignon. E allora, con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, Lorenzo Nespoli redazione e il nostro alpino Peter Pescapè in regia, noi tre abbiamo messo insieme 2 ore e mezza a testa, e quindi 6 ore di sonno stanotte, e ieri c'era la festa dei 15 anni di Radio 24. Abbiate pazienza, ma gliel'abbiamo fatta. A domani. Alessandro Milan è un